Ricapitoliamo quelli che sono stati questi attacchi da destra, cioè da presidente Boeri fino a tutto il PD, compresa Forza Italia, se vuoi anche un pezzo della Lega, è sempre stato contrario a Reddito Cittadinanza. Quel che è interessante notare è la polemica degli ultimi giorni, è uscito allo scoperto il vero tema su cui fa leva tutta la retorica dello stare sul divano e aspettare il reddito, ovvero in Italia i salari sono talmente bassi che converrà aspettare il reddito di cittadinanza, che tra l'altro ribadiamo è un reddito di sudditanza, perché poi in realtà costringe ad accettare offerte di lavoro qualsiasi un po' in tutta Italia, quindi anche una mobilità forzata dal punto di vista dell'immigrazione, e quindi si dice va, di fatto non converrà più lavorare. Questo di fatto è in qualche modo la maschera con cui, diciamo, da Confindustria, appunto, che prima ho dimenticato nell'elenco, si sono sempre nascosti su tutto quello che è, se vogliamo, l'espansione del welfare in Italia. Appunto, il reddito non garantisce niente di che, ma il problema, se vogliamo, della parte datoriale è quella che in questo modo, loro in principio, ma poi nella pratica sappiamo che non è vero, non possono tenere i salari così bassi. Ora, piuttosto che dal PD o comunque da tutti quelli che ci hanno imposto negli anni la svalutazione salariale vera e propria, cioè legalizzando il lavoro gratuito, gli stagi, i tirocini non pagati, la possibilità di uscire dai contratti nazionali e quindi di pagare la gente 830 euro, cioè salario mediano degli under 30, sostanzialmente piuttosto che poter rivendicare il fatto che questi salari possono essere aumentati, lo dicono, in questo modo ci private della possibilità di pagarli, di pagare i lavoratori così poco. Ecco, diciamo che in realtà forse un fondo di verità in questa critica c'è, nel senso che, come dicevi tu, visto che hanno messo tutti i vincoli per cui bisogna accettare per forza le offerte di lavoro, se non mi sbaglio invece rispetto a che tipo di offerte debbano essere si è messo pochissimo, quindi diciamo effettivamente può essere che poi, anche se non sarà permesso a chi usufruirà del reddito, però converrebbe, diciamo, rifiutare le offerte di lavoro, cioè c'è anche questo rischio qua. Poi il rischio dal punto di vista sostanziale non c'è, perché così come è fatto il decreto sul reddito di cittadinanza dice che bisogna accettare entro le prime tre offerte, qualunque esse siano, e quindi anche a parità di salario rispetto al reddito di cittadinanza o anche inferiore, pena la decadenza del sussidio. Quindi questo significa che dal punto di vista sostanziale le imprese non hanno nessun limite, nessun vincolo a pagare e alzare i salari. Dall'altro lato il problema è che i salari sono troppo bassi, cioè il problema qui non è abbassare il reddito, è aumentare i salari. Sì, sì, no, scusami, mi sono espressa male rispetto al rischio che intendevo, nel senso il rischio per i lavoratori di vedersi costretti a perdere il reddito per un'offerta di lavoro bassissima, visto che non c'è stato, che non ci sono queste clausole, diciamo. No, esattamente, e tra l'altro, cioè, come dire, sarebbe legittimata una persona che non si fa sfruttare 40 ore alla settimana o anche 30 per un salario che sia da 780 euro al mese? Cioè, dobbiamo anche smettere di dire che qualsiasi sia il prezzo del lavoro, quindi diciamo la retribuzione, il salario, il stipendio che sia, va bene purché si lavori. No, il lavoro è uno scambio tra domanda e offerta di lavoro a un prezzo, e il prezzo più basso, diciamo, della soglia di povertà è un insulto alla dignità umana. Però diciamo l'impressione che ho avuto io, non so se è la stessa che hai avuto tu, è che in realtà le critiche, appunto, dicevamo delle critiche da destra, perché la critica è appunto questa qua, però poi si basino tutte sulla stessa visione, su questa stessa visione, anche oltre che appunto della volontà di poter offrire degli stipendi più bassi di 780 euro, però anche dall'altra parte su questa visione un po' paternalistica che poi torna anche all'interno del reddito stesso, appunto, con le cosiddette norme antidivano. Sì, senza dubbio, ma infatti non so come dire, e così come è fatto il reddito di cittadinanza va tutto a beneficio delle imprese e solo un po', diciamo, e anche in modo molto temporaneo a quei lavoratori che davvero soffrono condizioni non di precarietà o di povertà relativa, ma quasi di deprivazione materiale. Stiamo parlando di una platea quasi in povertà assoluta, no? Se poi decurtiamo qual è il pezzo del reddito che va per l'affitto, che dovrebbe essere 280 euro. Quindi sono due retoriche che in realtà si rinforzano. Ovviamente tutta la parte, diciamo, a destra padronale, che deve essere oggi antigovernativa, su che cosa pone l'accento? Pone l'accento su una critica da destra, però il messaggio politico di questa protesta contro il reddito, comunque di questa critica, è proprio il nodo che a loro non importa nulla del reddito di cittadinanza in sé, importa solo e esclusivamente in relazione a quella che è la loro libertà di pagare o addirittura non pagare salari dignitosi. Ti faccio un'ultima domanda un po' provocatoria, nel senso che, appunto, come abbiamo detto, la maggior parte, se non tutte, le critiche che si sono sentite, almeno dall'arco politico, diciamo, più rappresentato, sono critiche appunto da destra, ma è perché non è possibile criticare da sinistra questo reddito? Ma non è vero, cioè la sinistra l'abbiamo criticato proprio perché è uno strumento di controllo sociale e sicuramente, diciamo, non fa uscire in nessun modo dalla povertà i lavoratori. Al contrario, se avessero detto noi vi diamo un reddito che è la soglia di povertà almeno, no? Quindi passare i 1.000 euro. E allo stesso tempo c'era un articoletto molto più basso, cioè non accettate nessuna offerta che sia inferiore alla soglia di povertà, a quel punto, no, come dire, si sarebbe davvero creata una maggiore libertà e dignità per i lavoratori. Quindi questo, la sinistra da un lato è questo, dall'altro lato a sinistra si è pure detto, cioè tutto il meccanismo burocratico, no, dietro al reddito di cittadinanza farà sì, un po' come il film, no, I, William Blake, nel senso di rimanere incastrati in una burocrazia amministrativa, per cui sarà pure molto difficile accedere al beneficio. E quindi in questo senso, cioè, la platea rimane bassa, i soldi sono pochi, perché con 5.000 euro l'anno mi devono spiegare come vive una famiglia e così via. Quindi da un lato, diciamo, come dire, non risolleva da questa condizione, diciamo, di povertà che tra l'altro aumenta tra la popolazione, dall'altro non riduce nessuno dei limiti, se vogliamo, del diritto del lavoro attuale, che si possono appunto permettere di continuare a pagare 450 euro al mese.